9 in punto, la versione di Oscar. Giovedì 31 marzo, cari ascoltatori, è una trasmissione dedicata a fare il punto ancora sull'allarme Lampedusa. Ieri le parole del Premier pronunciate sull'isola, parole che sono impegnative, perché c'è la promessa in 48-60 ore di alleviare, anzi risolvere le migliaia di presenze dei migranti accumulate oltre le, quelle della popolazione, quindi Lampedusa libera grazie al genio civile ed esercito, e promessa che i migranti verranno filmati e schedati con controlli antisbarchi su porti e coste. Ci sono le 6 navi civili che sono state prese a questo scopo per affiancare quelle militari per evacuare l'isola, e se ne è aggiunta una 7ª, ieri ha detto Berlusconi, per un totale di 10.000 posti. Una nave sarà sempre disponibile, quindi in altre parole i lampedusani dovrebbero contare su questo piano straordinario. Dopodiché, ha aggiunto Berlusconi, 0 sbarchi, la Tunisia ha confermato che non partiranno più persone, vedremo naturalmente, perché fino a questo momento non ce n'è assolutamente prova. Moratoria fiscale per l'isola interventi straordinari promessi alla popolazione su strade, fognature, elettricità, candidatura l'isola Nobel per la pace, bonus gasolio, una casa comprata, la villa che si chiama Le Due Palme da Berlusconi stesso nell'isola, insomma il Berlusconi che il quotidiano diretto da Sallusti presenta con lo stile Che pensi mi, marchio di fabbrica del Premier tutto fare. Ma detto tutto questo, invece, da giorni e giorni, ultima testimonianza per esempio le dimissioni del sottosegretario Alfredo Mantovano. Il sottosegretario Alfredo Mantovano lo conoscete, spesso è ospite delle trasmissioni di Radio 24. È una persona alla quale, al netto di quello che possiate pensare ciascuno di voi del governo di cui fa parte, alla quale parecchi riconoscono volentieri doti di essere persona preparata, seria, moderata. Il sottosegretario Mantovano si è dimesso ieri, il sottosegretario agli interni, e si è dimesso perché per la gestione dei flussi interni dei migranti provenienti dalla Tunisia, e in particolare perché altri 1.400 ieri si è disposto che si dovessero dirigere al centro prima assistenza alla Tendopoli, che è stata realizzata a Manduria in Puglia. Certo è collegio elettorale del sottosegretario, ma è anche vero che a Manduria avete visto le immagini negli ultimi giorni di quello che sta succedendo, cioè delle centinaia di ospiti dei manduri appena arrivati da Lampedusa che nei campi abbandonavano il centro superando la lieve recinzione che è stata messa intorno alla Tendopoli, e alimentavano, come abbiamo visto ricostruito sulla stampa in questi giorni, il flusso che si tende a dirigere verso la Francia. Avete visto in questi giorni come la Francia a Ventimiglia ha iniziato a restituirceli dura e tosta, esattamente come le fonti del governo di Sarkozy ci avevano detto fin dal primo momento. Altra testimonianza della tensione tra i due paesi ed è il fatto che l'Europa, che ci risponde con toni durissimi da parte dei membri della Commissione europea in queste settimane alle richieste italiane di potenziare gli aiuti economici e di rendersi disponibile ad affiancare l'Italia nel sostenere i flussi, ha conferma, dicevo, che sia la Francia ma sia l'Europa in generale dice: cari italiani, problema vostro e vedetevelo voi. Allora, ecco il quadro intorno al quale compiere la riflessione di oggi. Noi siamo ormai da 20 anni quasi alle prese con il fenomeno di improvvise accelerazioni che colpiscono il nostro paese con fenomeni di immigrazione clandestina, in cui il fenomeno dei profughi va filtrato rispetto al più di coloro che vengono e che non hanno affatto i requisiti ovviamente per ottenere l'asilo e lo status di profughi. E detto tutto questo, l'impressione che si ha ogni volta è che sia pur facendo stato del fatto che noi non avevamo un'eredità coloniale, non siamo paesi come la Gran Bretagna o come la Francia, che da molti decenni hanno imparato ad affrontare il fenomeno, e detto questo non hanno imparato neanche loro poi così bene, visto quello che succede nelle banlieue parigine e vista la durezza del cambio di marcia sulla politica dell'immigrazione effettuata proprio da questo governo, annunciando, ricordate la trasmissione che abbiamo dedicato a basta con il multiculturalismo annunciato da David Cameron, il premier britannico. Quindi alla luce del fatto che neanche loro, che hanno decenni e decenni più di noi, e nel caso britannico addirittura due secoli di esperienza più di noi di come si maneggia questo fenomeno, però non possiamo darci troppe scuse. In vent'anni fenomeni come quello che è in corso oggi a Lampedusa dalla Tunisia sono quantitativamente del tutto comparabili alle 50.000 che arrivarono in pochissimi giorni dall'Albania e che poi divennero centinaia di migliaia in un paio d'anni, in meno di tre anni più di 300.000 dall'Albania. Quindi l'Italia continua da questo punto di vista, malgrado la geografia la ponga a essere porta obbligata di quello che avviene a 80 miglia di mare nella sponda sud, continua a dare una risposta che a molti interroga, perché da una parte è ovvio che bisogna filtrare e distinguere la natura di coloro che vengono e che non possono essere lasciati morire in mare, è ovvio, ma del resto non possono neanche essere considerati semplicemente migranti a cui spalancare le porte per come stanno le cose in Italia. E dall'altra però la fatica evidente delle strutture di emergenza italiane ci dice che noi la risposta organizzativa, la cooperazione tra centro e periferia ancora non l'abbiamo trovata. Io ho fatto un conto e ho concluso questa mia brevissima introduzione sul Messaggero due giorni fa, cercando di unire tutte le poste negli ultimi 10 anni dei bilanci pubblici dedicati a come fronteggiare il fenomeno dei clandestini in Italia, quindi sommando alla somma che trovate nelle disponibilità del bilancio annuale del Ministero dell'Interno, che è esplicitamente volta a questa, quest'anno era di 460 milioni, se ne sono già aggiunti e sono già stati spesi i 20 milioni per l'emergenza subito apprestati dal governo 3 settimane fa, ma a quella posta vanno aggiunte tutta una serie di altre spese pubbliche che hanno a che fare con gli straordinari delle forze di sicurezza, con le spese per i mezzi che si usa per il trasbordo e giù per la catena fino al rimpatrio degli immigrati, poi come vedremo oggi approfondiremo ai 45 euro che è la spesa dichiarata nei CIE tipo quello di Lampedusa, cioè pacchetto di prima assistenza umanitaria e gestione di vita ordinario per migranti quotidiano, in realtà nelle strutture come i CARA e così via, quelle che sono andate in gestione, la media di spesa quotidiana per migrante presente è di 180-185 euro, e insomma tutto sommato, sommando tutte le cifre, io sono arrivato a una stima di circa 10 miliardi di euro di spesa pubblica in questo decennio per il fenomeno. Non voglio ridurre tutto alla spesa, però come vedete anche la spesa ha il suo perché, oltre al fatto che la cooperazione tra governo, presidente delle regioni e sindaci delle città che vengono individuate come siti per le nuove strutture di emergenza, il sindaco di Trapani, il sindaco di Pisa, testimonia che dietro la grande polemica sul fatto che bisogna essere tutti accoglienti e umanitari si cela poi una esperienza di questo ventennio che evidentemente continua a dividere più che a unirci su un progetto e una modalità di gestione. Allora parliamone intanto con gli ospiti. In questa prima parte della trasmissione sono con noi, e li ringrazio, il sottosegretario all'economia Sonia Viale. Buongiorno Viale. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. E informo gli ascoltatori che il sottosegretario dell'economia Viale ha una delega per la compensazione a Lampedusa e è eletta in Liguria. In questi giorni si sta molto occupando proprio del monitoraggio dei flussi dalla frontiera di Ventimiglia e di come rispondere, ed è con noi anche Giovanni Sammito, che è segretario generale del SIULP di Gorizia. Buongiorno Sammito. Sì, buongiorno a tutti. Perché il SIULP di Gorizia, direte voi, perché intorno alle finestre a nord-ovest e nord-est del nostro paese teniamo accesa l'attenzione non va tenuta accesa solo a sud, intorno per esempio a strutture come quella di Gradisca, negli anni è interessante notare, per questo abbiamo chiamato Sammito, non solo come hanno reagito le popolazioni locali, ma anche chi ha operato lì, come può testimoniare di come funziona questi sfiatatoi un po' problematici di questo fenomeno così delicato. Allora, onorevole Viale, dal suo punto di vista, ho elencato che cosa ha detto ieri Berlusconi, ma come si può sintetizzare quello che i lampedusani davvero possono attendersi per beneficio netto di quello che li colpisce? Tutto un risarcimento anche morale, perché rimane. Lampedusa deve tornare a essere quella che è sempre stata, un'isola accogliente, ospitale e turistica. E questo va a essere fatto ovviamente finita l'emergenza, immediatamente dopo e rispettando la tempistica data dal Presidente del Consiglio. Quindi una volta che l'isola sarà più come in queste ore luogo dove si sono quindi sono rimasti tantissimi immigrati, si potrà riconsiderare innanzitutto una un riordino di tutta la sistemazione delle strade, quindi opere di relative alle infrastrutture, la possibilità di creare la zona franca, una zona burocrazia zero, della quale si è parlato l'anno scorso nel decreto legge 78, e la possibilità poi sempre però di accordo con l'Unione Europea, la possibilità di avere anche un fisco agevolato. E queste sono iniziative importanti che potranno ridare ottimismo, fiducia alla popolazione dell'isola, oltre a iniziative dette dal Premier relative anche alla creazione di un campo da golf ad esempio, ma quello che più conta anche per i lavoratori dell'isola, agevolazioni sul gasolio per la pesca. Ecco, questo era anche una delle istanze che da tempo i pescatori di Lampedusa facevano, perché l'isola di Lampedusa è stata oggetto di emergenze non solo in questi ultimi giorni, ma negli anni. Sottosegretario, io naturalmente ho l'obbligo di dire subito che agli ascoltatori molte di queste promesse appaiono come singolarmente in contrasto con quello che hanno visto, cioè, e quindi io lo dico perché noi abbiamo gli sms che ci arrivano e dicono beh sì, queste sono le promesse, il mondo eccetera eccetera, intanto però la risposta è stata quella che è stata. Io le chiedo, in questo momento spostiamo anche l'attenzione a quello che avviene nel suo collegio di appartenenza, insomma, sì. Liguria, Imperia e così via. Le riconsegne francesi alla frontiera e la necessità quindi di dover apprestare poi anche strutture lì, che cosa ci dicono dello stato delle relazioni dopo tanti anni in cui noi fronteggiamo questo fenomeno tra Italia e il resto dei paesi d'Europa? Cioè, da questo punto di vista, tanto vale prenderne atto una volta per sempre che è impossibile ogni cooperazione, questo significa però modificare anche i termini poi delle politiche comuni, oppure c'è qualche cosa di particolare a giudizio che in questo caso induce i francesi a rispedirceli giorno dopo giorno a Ventimiglia per farci capire che la distinzione è sul tipo di operazioni condotte in Libia? Come la pensa? Ma tutto appare incomprensibile, anche perché le persone che vogliono andare in Francia sono di lingua francofona, hanno familiari, parenti, quindi sono persone che non andranno aree turbative di ordine pubblico. D'altronde neanche a Ventimiglia abbiamo assistito a episodi che abbiano potuto creare allarme nella popolazione. I cittadini ventimigliesi hanno in queste ultime settimane affrontato con grande serietà la situazione. Quindi l'atteggiamento della Francia, oltre ad essere letto anche da un punto di vista della politica interna di quel paese, comunque ci rende diffidenti nei confronti di un'Unione Europea nel suo contesto, che non difende le proprie frontiere, perché Lampedusa non è solo una frontiera italiana, è la frontiera dell'Europa. Quindi la difesa delle frontiere marittime e terrestri dell'Unione Europea è assente da parte dell'Unione Europea. Deve rimanere solo un problema dell'Italia, detta appunto dell'Unione Europea, ma non solo, degli altri singoli paesi dell'Unione Europea, che non si vogliono fare carico dell'emergenza. Non se ne parla neppure dei clandestini, ma neppure dei richiedenti asilo e dei profughi, perché il no rispetto alla distribuzione di chi dovrà ancora venire come profughi è rivolto anche nei confronti di queste persone, di quelli che avranno lo status di rifugiato. Ecco, e quindi anche dal punto di vista politico, il mio partito di appartenenza, la nostra diffidenza nei confronti dell'Unione Europea rispetto alle politiche dell'immigrazione era fondata. Allora, intanto le notizie di cronaca dicono che è partita da Lampedusa questa mattina la prima nave, una nave da crociera Excelsior, con a bordo circa 1500 immigrati tunisini che dovrebbero essere portati appunto a Taranto. Stiamo parlando esattamente di ciò che ha indotto il sottosegretario Mantovano a dimettersi. Noi stiamo tentando di metterci in contatto con lui, però evidentemente non vuole parlare l'onorevole Mantovano. Allora, Giovanni Sammito, ricordo ancora segretario generale del SULP di Gorizia. Io utilizziamo lei in rappresentanza dei suoi colleghi, innanzitutto per un punto di vista su chi lavora nell'apparato di sicurezza dello Stato e si trova dopo tanti anni di volta in volta di fronte a queste accelerazioni di un fenomeno che però ci è noto sempre di volta in volta di fronte a problemi di inefficienza, dove l'inefficienza è ovvio da una parte sta all'imprevedibilità. I flussi erano in fortissima diminuzione per effetto anche di accordi con la Tunisia nell'anno alle nostre spalle, però ciò malgrado, ripeto, dall'Albania erano molti di più in unità di tempo del tutto paragonabili e concentrate. Allora, primo, l'inefficienza. Ragioni di questa inefficienza e di questa tensione evidente dell'inadeguatezza dell'apparato di sicurezza e di emergenza nel nostro paese. Secondo, alla luce dell'esperienza localmente fatta in posti appunto come la struttura che c'era a Gradisca, qual è il fenomeno che si crea per cui poi dopo tanti anni e mentre a parole tutti dicono sì, dobbiamo aprire le braccia all'emergenza, nella realtà gli amministratori locali eccetera eccetera dicono grazie no, come sta puntualmente avvenendo ancora una volta. Prego Sammito. Sì, guardi, l'ha detto in premessa lei, c'è un doppio problema. Allora, intanto è quello dell'impatto. Le strutture, i CIE, gli ex CPT, modificano diciamo i ritmi di qualunque città in cui vengono istituiti. È chiaro che se poi il CIE ha dimensioni sovrastimate rispetto alla località che lo ospita, allora il problema diventa molto più grande. È il caso di Gradisca di Sonso. Allora, a Gradisca di Sonso c'è il CIE più grande d'Italia collocato nel comune più piccolo d'Italia. Cioè una struttura atta a ospitare quante persone? Guardi, al pieno delle sue potenzialità può ospitare 250 trattenuti e circa 150 richiedenti asilo. È chiaro che in situazione di emergenza potrebbe ipotizzarsi addirittura un ampliamento. Allora lei capisce che in un comune così piccolo crea una sorta di allarme sociale. Allora a Gradisca di Sonso, come peraltro in tutti i centri d'Italia, in tutti i CIE d'Italia, via via ci sono stati fughe, atti di lesionismo sempre più cruenti, ci sono state rivolte interne, per ultimo nel mese trascorso ci sono stati 6 incendi appiccati utilizzando i materassi che producono dei fumi tossici, per cui la struttura è stata resa praticamente inagibile. Attualmente i trattenuti per fortuna sono stati ridotti nel numero, adesso siamo a 85 in questo momento, non dispongono di materassi, quindi diciamo che l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, per evitare il protrarsi di queste iniziative di protesta attraverso gli incendi che rendono praticamente inutilizzabili poi i locali, sono stati tolti i materassi, per cui si pone un problema anche dal punto di vista diciamo della dignità di questi trattenuti, ma ripeto, è stata una misura dettata dall'emergenza, poiché incendiando le camere loro tendono di farsi rilasciare l'espulsione per intimazione, perché poi la finalità di queste iniziative poste in essere dai trattenuti è quella di rendere inagibile la struttura per farsi mandare via. Attualmente al CIE di Gradisca di Sonso prevalentemente nel 90% sì, ci sono degli ospiti, chiamiamoli così, tunisini, e quindi la situazione è paradossale, perché nei CI attualmente possono permanere fino a un massimo di 6 mesi, cioè entro questo, diciamo, periodo di tempo si deve addivenire alla identificazione ed accompagnamento presso diciamo, i paesi di provenienza. Ebbene, questi tunisini, ne abbiamo alcuni che sono dentro ormai da 5 mesi e mezzo, fra qualche giorno scadono i 6 mesi, verranno regolarmente muniti di decreto di espulsione, e quindi gli si chiede di riuscire dove lo Stato non è riuscito, cioè gli si dice: noi non siamo riusciti a mandarti a casa, adesso te ne devi andare via da solo. Cosa che naturalmente è inutile che ci ripetiamo in che cosa si traduce in concreto. Certo, perché poi tra l'altro, dottor Giannini, il problema è quello dei costi che diceva lei. I costi sia dal punto di vista appunto, diciamo, economico. Io credo che l'analisi che ha fatto lei è puntuale. Noi ne abbiamo fatto una qui a Gradisca di Sonso, diciamo approssimata per difetto. Le dico che prendendo in considerazione i trattenuti del 2010, che sono circa 830, e di questi solo un terzo sono stati mandati via effettivamente, perché tutti gli altri sono stati muniti di decreto di espulsione, ebbene il costo pro capite per ciascuno di questi 830 che sono transitati per Gradisca di Sonso è attorno ai 15.000 euro. Se poi invece come dire, il rapporto è con riferimento a coloro che sono stati effettivamente accompagnati o a casa, quindi nel paese di provenienza, o al confine dal quale poi sono partiti per recarsi a casa, la media è di circa 40.000 euro. 40.000 euro per i costi dell'espulsione, ecco. Esatto, guardi, noi stiamo parlando di un costo che va molto oltre quello che lo Stato, come dire, spende per un detenuto vero e proprio. Allora, queste strutture presso le quali si vive ancora una situazione di emergenza, perché, come dire, mancano gli uomini, quando parlo di uomini parlo di addetti alla sicurezza, certo. Perché quando sono stati istituiti i CIE occorreva fare un'assunzione straordinaria di personale da adibire specificatamente a quel tipo di attività. Oggi di fatto che cosa accade? Che per come dire, gestire il CIE di Gradisca di Sonso, ma vale per tutti gli altri nel paese, le risorse umane vengono sottratte al controllo del territorio. Sì. Guardi, di fatto noi riduciamo il controllo del territorio per mantenere i CIE. Allora, nel rapporto costi-benefici, bisognerebbe interrogarsi se oggi rispondono queste strutture alle finalità. E questo è proprio uno dei punti su cui io mi interrogo. Dopo tanti anni, la risposta di fronte a un'accelerazione internazionale del fenomeno, con distacchi di emergenza dall'apparato della sicurezza ordinaria sul territorio, nella diversa organizzazione delle diverse forze di polizia e di sicurezza italiana, può essere comprensibile, ma è una risposta ordinaria data al fenomeno attraverso questo modulo organizzativo che ai miei occhi resta del tutto incomprensibile. Mi tocca, prima di lanciare la pubblicità, farvi osservare che il conto dei miei 10 miliardi nell'ultimo decennio, che io ho fatto su medie che andavano dai 45 ai 180 euro per costo quotidiano a seconda dei diversi centri di permanenza, e con un ciclo di permanenza individuale nei CIE di 150 giorni rispetto ai 6 mesi massimi disposti dalle attuali norme vigenti prima del decreto di espulsione, di 10.000 euro a testa, se le cifre della stima appena illustrataci da Giovanni Sammito, il segretario generale del SUP di Gorizia, sono attendibili, come non ho motivo di ritenere, perché è più probabile che non siano attendibili le mie, che non sono un addetto del settore, come vedete i miei 10 miliardi rischiano di lievitare a 15 quantomeno. Insomma, dobbiamo essere anche consapevoli che è un fenomeno che ha questa portata negli anni recenti sulle spalle del del nostro già limitato bilancio per le forze della sicurezza italiane, e la mancanza di una struttura specializzata ad hoc, e cioè di un bilancio ad hoc, significa che bisogna sempre più andare a levare alle esigenze quotidiane ed ordinarie delle forze di polizia e di sicurezza. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando dell'emergenza immigrati, costi, problemi organizzativi, forze di sicurezza italiano, difficoltà permanente di dialogo e concertazione, non solo con la nuova Tunisia. Trovate oggi sul Corriere della Sera il segretario generale del Ministero degli Esteri tunisino che dice sì, l'Italia ci presta ma abbiamo bisogno di comprensione, ma anche tra centro e periferia, visto che i presidenti di regione a parole hanno detto tutti sì alla proporzionalità di redistribuzione dei flussi. In realtà, come si vede dalle proteste a Manduria, le proteste a Trapani, le proteste a Pisa in Toscana e praticamente altrove, si può dire sì, quasi tutti preferirebbero evitarle queste strutture aggiuntive. Abbiamo con noi, ci ha raggiunto mi avete aggiornato il nome? Ecco, niente, non lo trovo. Ah, ecco, sì, ci ha raggiunto, perdonate, ma a volte abbiamo delle difficoltà nella velocità del video, per cui io dalla regia non riesco ad aggiornare le informazioni e notizie. E ci ha raggiunto Orazio Michalizzi, che è il vicepresidente del consorzio Connecting People, ed è uno degli maggiori operatori, questo consorzio Connecting People, in Italia, che si occupa proprio dei servizi e della logistica nei CIE del nostro paese. Per esempio quello di Gradisca, di cui abbiamo parlato con Giovanni Sammita, segretario generale del Sviluppo di Gorizia, è gestito da loro, e Connecting People gestisce anche molte dei centri di accoglienza richiedenti asilo ICARA, che sono quelli destinati appunto a coloro che hanno i titoli che hanno fatto la richiesta per l'asilo, distinti quindi dai clandestini ordinari. Buongiorno Michalizzi. Buongiorno. Senta, nella prima parte lei non ci ha ascoltato, noi abbiamo fatto una stima approssimativa non solo dei costi di gestione ma anche delle problematiche che i centri continuano ad avere. Malgrado in tanti anni dovremmo aver raggiunto un modello. Ecco, perché in realtà non è stato possibile raggiungere un modulo organizzativo di sicurezza, di interlocuzione con le popolazioni circostanze e chi le rappresenta? Perché a distanza di tanti anni un CIE, un CARA, una struttura, comunque la si chiama, di questo tipo, rappresenta sempre qualche cosa che viene vista solo come una fonte di problemi? E oltretutto io so da voi che siete anche esposti molte volte ad atti di intolleranza, incendi, cose non solo realizzati da chi sta dentro, ma a volte che hanno una origine dai rapporti problematici con il territorio circostante. Ma io in realtà non ho sentito la prima parte, però mi sento di dire che è un modello, almeno in Italia, sull'accoglienza è stato raggiunto, sono stati fatti grandi sforzi su un modello di gestione dei CARA. Naturalmente dobbiamo distinguere i CARA, che sono i centri di accoglienza per i richiedenti asilo, dai CIE, che sono centri di identificazione ed espulsione, e che sicuramente sono di molta più difficile gestione. Tra l'altro noi abbiamo sempre detto che pur gestendoli non siamo d'accordo al modello di questo centro per le persone che non hanno diritto di restare in Italia, che non sono regolari, a differenza del CARA. Quindi io mi sento di dire che un modello è stato raggiunto, naturalmente durante l'emergenza. Però spieghiamoci, perché sennò il nostro pubblico inizia a insorgere immediatamente. Siccome è stato raggiunto, si vede in quello che succede di volta in volta, nessuno li vuole. Di sicurezza viene vista come un problema di sicurezza. In che cosa consiste secondo lei il modello raggiunto, di cui dovremmo invece dire siamo soddisfatti? Secondo me dobbiamo distinguere, tra i centri che il governo sta affrontando adesso nelle tendopoli, per essere chiari, come quella di Manduria, che non sono dei modelli sperimentati ma servono semplicemente per l'emergenza, anche se appunto si poteva gestire diversamente, tra i CARA e i CIE. Allora, i CARA non hanno mai dato nessun problema sul territorio, non credo che ci siano dei comuni o delle persone che protestano perché c'è la presenza di un CARA in loco. La maggior parte delle proteste avviene perché ci sono i CIE, perché i CIE sono dei luoghi chiusi. Sì, però sono... Michalizzi, che capiamo, perché altrimenti chi è a casa poi cara CIE non capisce. I centri di assistenza di coloro che richiedono asilo, il CARA, in realtà sono per poche decine di unità e una volta ottenuto il filtro. È ovvio che il fenomeno va affrontato e diventa un problema nel nostro paese di fronte a migliaia e migliaia di migranti in cui il filtro non si è ancora realizzato. Per questo mi sono rivolto a lei, perché voi gestite anche i CIE. Perché altrimenti, ripeto, continuare a dire nei CARA c'è il modello e quando arrivano i flussi salta tutto, mi perdoni Michalizzi, infatti chiedevo a lei proprio dal vostro punto di vista e al netto di quello che pensate della legge Bossi-Fini, questo non c'entra, come cittadini ciascuno la può pensare come vuole, ma nella realtà gestendo queste strutture che vengono travolte, dov'è secondo lei la lezione che ancora non abbiamo imparato? Io insisto sul dire che appunto i CARA possono accogliere oggi in Italia 2500 persone, tra l'altro la capienza si è anche notevolmente aumentata con la presenza di Mineo, con questa apertura di questo nuovo CARA a Mineo. L'accoglienza che stiamo facendo dei tunisini, per essere molto schematici, che non sono richiedenti asilo e rifugiati, va fuori dagli schemi diciamo ordinari, e quindi la costruzione di una tendopoli in una città come Manduria naturalmente porta degli scompensi, perché le persone presenti sul territorio sono notevolmente di più rispetto agli abitanti di rapporto. E quindi io mi sento di dire che in Italia diciamo il sistema funzionava e ha retto anche a grossi flussi, funziona tuttora, naturalmente in questo momento stiamo assistendo a delle un po' a un cambio diciamo di modello del governo, cioè nel senso che ha pensato, appunto, poi ognuno la pensa come vuole, io non sono d'accordo, ma ha pensato a fare dei siti che sono delle tendopoli. Noi per esempio adesso stiamo gestendo Manduria, ma è un grosso problema gestire 3.000 persone in 30, anche perché si avvicina il caldo, diventa un problema proprio gestire. Ma Michalizzi, ripeto, in poche ore, visto che si tratta in questo caso per esempio di risolvere l'emergenza di Lampedusa che si è protratta per giorni, tanto che alcuni hanno pensato lo teniamo apposta lì perché così l'Europa capisca, io non credo che il governo italiano ragioni così cinicamente, il problema è che come si è visto tenerli lì è innanzitutto tenerli concentrati e non disperderli, perché sennò avviene esattamente la dispersione sul territorio. Uno, due, significa doversi prima farsi dare il consenso degli amministratori locali, che non c'è, tanto per essere chiari. Quindi Michalizzi, al netto di tutto questo le chiedo, come si fa in pochi giorni a risolvere un problema così, se non con le tendopoli, se non con le strutture di emergenza, per esempio le caserme dismesse individuate, ho visto la lista dal Ministero degli Interni e soprattutto della Difesa, sono tutte sprovviste delle strutture immediate, e quindi anche in quel caso molto probabilmente si fanno delle tende su dei piazzali. Lei dice non va bene, ma qual è la risposta, quale avrebbe potuto essere? Guardi, noi negli anni passati abbiamo gestito delle emergenze, ci sono stati anche dei grossi flussi. Allora il governo ha chiesto, ha interpellato a degli enti privati, come possiamo essere noi, che avevamo già dato al Ministero dell'Interno la disponibilità per 1.000 posti in tutta Italia, ma come può essere la Caritas, che aveva dato la disponibilità per altri 2.000 posti in tutta Italia. Così come altri enti si sono mobilitati per fare dei siti molto più piccoli, parliamo di 150-200 persone in accoglienza sparse sul territorio. Il modello del governo è stato diverso, cioè è stato quello di dire che creiamo delle grosse strutture dove far alloggiare queste persone. In realtà per fare le grosse strutture c'è bisogno di più tempo. Quindi secondo me il rallentamento che c'è stato... Lei dice che sono le grosse strutture che implicano più tempo rispetto alle piccole. Sul problema delle piccole, della maggior dispersione che rende molto più porose, fa saltare le maglie e quindi è ovvio che si disperdono più sul territorio e se ne perdono le tracce, lei dice è vero o non è vero? No, non è così. Ma non è vero, perché noi abbiamo assistito a Manduria, sono andate via 600-700 persone, sono scappate, anche perché è ingestibile... Cioè, tenerli fermi è impossibile e non commettono nessun reato andandosene via. Quindi voglio dire, la stessa cosa può succedere nei piccoli centri. È semplicemente una questione di scelta, cioè il governo ha scelto. Perfetto. Di fare. Chiediamo a Sonia Viale, dal suo punto di vista, pur non essendo lei una responsabile diretta della catena dell'emergenza e della soluzione del problema, perché ripeto, è sottosegretario all'economia, l'abbiamo chiamata però per le compensazioni di Lampedusa e perché c'è il fenomeno anche con la Francia nel suo collegio elettorale di cui si occupa, quindi politicamente tutti i giorni. Però sentendo chi come Michalizzi dalla parte delle organizzazioni che sono impegnate insomma nell'offrire servizi di cui lo Stato si avvale nei CIE e soprattutto nei CARA, che dice noi non siamo d'accordo perché lo Stato, il governo anzi, tende ad accentrare e quindi commette lui l'errore. Se si affidasse a noi, al mondo delle ONLUS, strutture più piccole disperse sul territorio, che impressione le fa questo tipo di contestazione, onorevole Viale? Ma innanzitutto partiamo dal dato di partenza. Dall'inizio dell'anno sono arrivate 22.000 persone. È un'emergenza importante che giustifica anche il fatto che la macchina dell'organizzazione debba essere impegnata allo spasimo a trovare delle soluzioni che abbiano meno impatto sulla popolazione italiana, ma nello stesso tempo una soluzione per affrontare l'emergenza. Quindi trovare il giusto equilibrio è sempre complicato. La strada scelta dal governo riteniamo tutti sia quella giusta, quella che vede da un lato un'intensa attività diplomatica per bloccare le partenze e accelerare tutte le espulsioni e i rimpatri dei clandestini che oggi si trovano sul nostro territorio provenienti dalla Tunisia, e dall'altro trovare sul territorio una collocazione in centri destinati ai clandestini, sarebbero i CIE, non è facile. Questo lo hanno già l'avete già evidenziato voi, i territori non sempre sono felici di accogliere nuove strutture, mentre laddove ci sono 10 CIE già esistenti sul territorio italiano, sono luoghi che garantiscono sicurezza ai cittadini, non è il contrario, perché sono i luoghi dove persone irregolari sul nostro territorio vengono portate in attesa dell'espulsione. Vi ricorderete tutti la grande polemica durante la discussione del pacchetto sicurezza sulla durata di permanenza nei CIE. Da 2 mesi si portò a 6 mesi e questa cosa venne da molti descritta come una scandalo, una violazione dei diritti umani. In Europa si possono trattenere i clandestini fino a 18 mesi e questa durata di permanenza serve per procedere meglio alle identificazioni e poter, sempre per via diplomatica, organizzare i rimpatri. Quindi l'attività nel mondo della dell'immigrazione irregolare da parte del governo è un'attività molto complessa che si articola su vari piani, che è chiaro che per chi ci ascolta, per i cittadini, sembrano tutte procedure complicate, burocratiche, complesse, ma l'Italia deve rispettare le regole che ci sono. Quando ha potuto ha cambiato le regole di propria competenza che potevano migliorare le normative in materia di espulsioni più rapide per garantire anche maggiore sicurezza ai cittadini. E non dobbiamo neanche dimenticare, come diceva l'ultima persona che è intervenuta, che noi abbiamo un sistema di accoglienza tra i migliori al mondo per quanto riguarda i richiedenti asilo, sia una tutela per le fasce deboli, i minori, le donne e gli anziani, che per chi appunto proviene da paesi in guerra. Quindi questo è un nostro fiore all'occhiello e dobbiamo di questo esserne fieri. Questa è un'emergenza che riteniamo possa concludersi rapidamente, ripristinato l'accordo con la Tunisia, e vedremo nelle prossime ore tutto quanto annunciato dal ministro Maroni e ieri dal presidente Berlusconi verrà attuato. Bene, intanto le notizie agenzie dicono che è in corso, iniziata questa mattina, la disinfestazione del porto vecchio di Lampedusa, una decina di uomini, leggo un dispaccio della DN Cronos, in tuta bianca, stanno disinfestando metro dopo l'altro la zona che costeggia il porto dal quale vengono imbarcati gli immigrati tunisini, polizia straordinaria anche sulla piccola spiaggia davanti al porto. Intanto noi diamo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, ci ha raggiunto telefonicamente, lo ringrazio di questo, il sindaco di Pisa Marco Filippeschi. Perché il sindaco di Pisa? Buongiorno a lei. Perché nell'ambito della ripartizione dei flussi, quella Maroni è fatta con le regioni, e alla Toscana per il criterio di ripartizione pesato sulla popolazione toccavano sulla stima di 50.000 più o meno 3.200 dei migranti attesi dalla Tunisia, in realtà appunto anche lì in questi giorni sulla stampa locale il sindaco di Pisa dice no, qui si parla di un intervento qua, non siamo d'accordo sulle modalità. Come mai, sindaco? Ma intanto perché non c'è stata nessuna concertazione. Io ho saputo da un'agenzia di stampa che Pisa e Coltano in particolare venivano individuate per fare un centro di raccolta. Si poteva pensare di profughi, ora si è capito che invece sono immigrati senza permesso di soggiorno. Quindi c'è un problema di metodo grave, perché insomma noi siamo sempre stati pronti ad affrontare. Lei lo ha preso dalla lettura dei giornali, neanche da una telefonata del prefetto. Non c'è un rigo, non c'è un fax, una mail, una lettera. Se venite al protocollo del comune non c'è nulla. E ora sono in prefettura, in realtà non c'è neppure il provvedimento che dovrebbe disporre i lavori per mettere in condizione questa vecchia stazione di trasmissioni militari di accogliere, perché sono lavori importanti. Perché è un'area militare, una di quelle appunto identificate dalla difesa. No, come... non è militare, è demaniale, non è più militare. Ah, ex militare, no? Demaniale. Quindi, è solo recintata con filo spinato, doppia recinzione, insomma assomiglia molto a un centro di permanenza di quelli che abbiamo conosciuto con risultati a volte tragici negli scorsi anni. Quindi però... è un'area che va completamente attrezzata per l'OPO. Sì, 15.000 metri cubi di ghiaia, cioè c'è da riempire perché è palude, cioè una zona palustre, il parco di San Rossore. Sì. Vicino a dove fu il campo di concentramento che nel 1945 contenne gli ex militari della Repubblica di Salò, insomma, quello famoso di Ezra Pound, tra l'altro. Quello, ecco, sì. Vicinissimo a 500 metri dalla stazione Marconi che vogliamo ripristinare, insomma siamo in un parco, quindi si fa agricoltura, si vorrebbe fare turismo, la vocazione non è esattamente quella a fare campi di contenimento. Quindi, e poi nel merito... La Toscana, come si sa, aveva fatto un'altra proposta di una accoglienza diffusa, per cui il presidente Enrico Rossi aveva messo a disposizione strutture per gli stessi 500 cittadini che dovrebbero venire invece a Coltano, e ieri paradossalmente si è data una disponibilità alle regioni per i rifugiati che ancora non ci sono, sì, e si è negata invece per gli immigrati che invece ci sono. Ecco, noi abbiamo oggi tentato di spiegare, meglio di quanto facciano i giornali, che secondo me non avevano ancora spiegato ai loro lettori, esattamente questa, i termini del confronto e della polemica anche nei confronti del governo. Avete sentito che il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, ha ripreso, fatto proprio in realtà gli argomenti che ci avevano illustrato Orazio Michalizzi, vicepresidente del consorzio Connecting People, che è uno dei maggiori attori nel gestire i CARA, cioè i centri dove vanno coloro che hanno richiesto asilo, e anche alcuni CIE. E come Michalizzi, anche il sindaco di Pisa, che è tra coloro che dicono accogliere sì, però non è che potete metterci dove noi vogliamo fare altre cose improvvisamente senza neanche confrontarsi, ci dite qui si fa la cosa. Che cosa ci dicono? Ci dicono nel modello di gestione c'è un problema, perché si preferisce da parte del governo identificare pochi siti dove tenere tutto centralizzato, con gli enormi problemi che questo significa però, di impatto con le popolazioni, con le economie locali, del fatto che bisogna allestire tutto ex nove, si impennano anche i costi, non si risolve il problema della sicurezza perché, come dimostra Manduria, scappano di più. Dall'altra parte invece, perché non affidarsi alla rete delle ONUS, di coloro che gestiscono il fenomeno, che danno la possibilità per le stesse cifre un modello di dispersione territoriale che non ha lo stesso impatto, le stesse problematiche. Credo che questo, ecco, ci abbiamo messo un po' per capirlo, ma questo, più delle polemiche politiche destra e sinistra che ci sono, ma in questo momento non mi interessano, sia il vero punto su cui riflettere dopo tanti anni. Perché di fronte a un'accelerazione dell'emergenza scegliere questa seconda strada ha, credo anch'io, un impatto minore che mettersi a fare le tendopoli come Manduria, di fronte alle quali sia i parlamentari del centrodestra del governo, come l'onorevole Mantovano, sia gli amministratori locali del centrosinistra di Vendola, non possono che dire no, state sbagliando. Quando impareremo questa lezione, e come dispiace che non abbiamo potuto dare voce ai molti cittadini e molti ascoltatori che avevano prenotato per le loro telefonate, comprese alcuni che dai nomi capisco sono ex immigrati che sono venuti coi barconi in Italia e coi gomoni anni fa, e in particolare anche le loro voci bisogna ascoltare in giorni come questi. Ma vi dico, qui c'è un po' un problema aperto, perché ha a che vedere con la fisionomia del modello organizzativo. Come si dà una risposta? Con la dispersione del territorio, affidandosi alle onlus e al terzo settore, o con le tendopoli? Io credo che le tendopoli portano sia alla protesta da una parte di chi dice non li vogliamo, tenetevi a casa, rispeditevi in Tunisia, che non piacciono a tanti italiani che si considerano per benissi al netto, ma tutti gli italiani di fronte a problemi come questo, a modalità come queste, credo che non possano che essere d'accordo con il sindaco di Pisa o con lo stesso sottosegretario Mantovano. Ecco il punto su cui riflettere. Grazie a tutti i nostri ospiti, a Sonia Viale, a Orazio Michalizzi, a Giovanni Sammito e a Marco Filippesco, e grazie a tutti gli ascoltatori. Appuntamento a domani, Linea Generale Radio.